Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Si è chiuso con un convegno settimana scorsa a Pordenone il progetto di mappatura energetica e ambientale del distretto del mobile di Livenza. Credo sia il più grande distretto del mobile in Italia ed è questo anche uno dei primi casi di mappatura energetica di un distretto industriale. Allora cerchiamo di capire com'è andata e anche quali saranno i passi successivi. Ne parliamo con Mauro Manassero, presidente del distretto del mobile di Livenza. Buonasera Manassero. Buonasera a voi. Senta, prima di entrare sul tema, ci vuole dire qualche numero sul distretto di Livenza? Il distretto del mobile Livenza si trova innanzitutto in provincia di Pordenone, raccoglie gli 11 comuni della provincia caratterizzati da una presenza molto importante di industrie che operano nel settore del legno e dell'arredo. Le aziende presenti all'interno di questi 11 comuni sono circa 700 ed occupano qualcosa come 12.000 dipendenti. Il fatturato è attorno ai 2 miliardi e mezzo e il 35% circa di questo fatturato viene esportato. Senta, allora come nasce l'idea di questa operazione di mappatura energetica e anche ambientale del distretto? Diciamo che innanzitutto il nostro distretto si è caratterizzato per una sensibilità particolare da parte delle aziende, da parte dei comuni, su quelli che sono gli aspetti ambientali, tant'è che già dall'inizio degli anni 2000 ci siamo impegnati con operazioni che tendono a certificare le aziende con certificazioni 14001 piuttosto che EMAS, sì. E adesso con un ulteriore progetto che vuole certificare un prodotto ecocompatibile fin dalla sua progettazione alla sua commercializzazione e relativo smaltimento. Chiaramente all'interno di tutto questo percorso non poteva mancare una verifica sulla parte dei consumi energetici, quindi l'idea nasce per integrare questo nostro percorso con programmi specifici che possano andare ad aiutare le aziende a capire e intervenire per un migliore efficientamento su tale tematica. Senta, allora, tutto è cominciato con la mappatura appunto dei consumi. Quante aziende sono state coinvolte e come è avvenuta? Un questionario, se non sbaglio, si è cominciato così. Ma innanzitutto ci siamo rivolti alle aziende con un questionario per cominciare ad avere una serie di primi dati. Le aziende coinvolte sono state una novantina, quindi assolutamente non poche. Aziende, per dire, che vanno dai 3 ai 300 dipendenti, sì. Come dimensioni. Poi, partendo da questa base di 90 aziende, abbiamo selezionato un campione di circa 40 aziende su cui sono state fatte analisi approfondite sia su costi che su prestazioni ambientali e poi ulteriormente siamo andati a fare una ventina di audit sui consumi energetici e sulla verifica delle opportunità di miglioramento e di investimento in efficienza. Ecco, rimanendo concentrati su questo aspetto, soprattutto dell'efficienza energetica, qual è il quadro che è venuto fuori? Insomma, che consumi avete, in cosa siete bravi, in cosa potete migliorare? Ma guardi, siamo bravi a utilizzare innanzitutto, ove possibile, gli scarti di lavorazione, perché noi da molti anni abbiamo utilizzato gli sfridi di lavorazioni dalle attività di segheria piuttosto che di lavorazioni. Polverino di legno, vero, in pratica? No, esatto, per alimentare le nostre caldaie. Ovviamente impianti che hanno delle caratteristiche compatibili anche con le normative vigenti. Detto questo, vi sono ancora realtà ove viene usato l'olio combustibile, laddove queste caldaie per esempio possono essere sostituite con il gas. Abbiamo rilevato poi delle possibilità molto importanti di miglioramento laddove si possono effettivamente sostituire alcuni macchinari quali i compressori che vengono utilizzati in produzione con delle macchine a portata variabile e che hanno ovviamente degli indici di efficienza molto maggiori, piuttosto che sui corpi illuminanti è possibile sicuramente ottenere con un'illuminazione più adeguata sfruttando le più moderne tecnologie quali il LED delle efficienze e dei risparmi non indifferenti. Tra l'altro proprio come dire qui davanti il grafico alla fine quasi il 90% dei costi energetici sono elettrici proprio perché i costi termici in gran parte li coprite da soli col vostro polverino e quindi restano fuori queste voci, la compressione, l'illuminazione. Tra l'altro una cosa che ho scoperto curiosa è che nei vostri magazzini dovete tenere le luci accese anche quando fuori c'è il sole perché il sole scolorisce i prodotti finiti. per esempio. Ci sono problematiche specifiche. Senta, complessivamente, visto che siamo in chiusura, quale può essere adesso il ruolo del distretto per mandare avanti questo progetto, insomma, facendo sì che dopo l'audit, dopo l'analisi, si passi ai fatti, insomma, e alcune aziende implementino questi suggerimenti? Ma indubbiamente il distretto come agenzia per lo sviluppo del territorio vuole proporsi come soprattutto polo di aggregazione per le imprese. Ecco, noi vorremmo comunicare le possibilità che ci sono attraverso un efficientamento energetico e una riduzione delle emissioni. Poi vorremmo effettivamente in favore delle aziende poter anche valutare la possibilità di costituire una massa critica negli acquisti, ma per negoziare anche cosa? Garanzie, interventi finanziari con tutte quelle aziende che vogliono investire per migliorare le proprie prestazioni in tema di energie. Oltretutto ci proporremmo anche un progetto un po' più ambizioso, vale a dire di contribuire al finanziamento di tutto quello di cui ho appena parlato attraverso la gestione dei cosiddetti certificati bianchi, cioè quei certificati. I titoli di efficienza energetica. E qui avevate proprio un progetto peculiare, perché c'era l'idea di avere dei certificati bianchi di distretto, in modo che fosse il distretto stesso che potesse gestirli, sempre reinvestendo sull'efficienza, vero? Proprio per le motivazioni di cui ho detto prima, vale a dire fungere da collettore, utilizzare queste economie per ribaltarle sul territorio e sulle aziende, per far sì che possano quindi ottenere quei miglioramenti attraverso i relativi investimenti di cui si parlava prima. Grazie Manassero. Grazie a voi. È tutto, a domani.